766. Gelato di banane. Il banano, musa paradisiaca di Linneo, nel suo paese nativo è volgarmente chiamato fico di Adamo o albero del paradiso terrestre, perché il volgo crede che quella fosse il famoso frutto proibito e che le sue ampie foglie abbiano servito a coprire la nudità di Adamo ed Eva dopo il peccato della disubbidienza. Nasce nelle due Indie ed il suo frutto è in forma di un grosso baccello, simile in apparenza ad un cetriuolo di buccia verde, ma liscia, triangolare e falcata. La sua polpa interna è di sapore delicato, ma quando non è giunta ancora a perfetta maturità, ha un'azione alquanto astringente. Per farne gelati, scegliete frutti di buccia giallognola, che allora sono maturi. Eccovi le dosi di un gelato che ha servito per 6 persone. Banane numero 4, che sono riuscite, nette dal guscio, grammi 240. Zucchero bianco grammi 200, un limone di giardino, acqua mezzo litro. Passate la polpa delle banane dall'ostaccio, aggiungete a questa il sugo del limone, fate bollire lo zucchero nell'acqua per 5 minuti a cazzaruola scoperta, mescolate ogni cosa insieme e versate il composto nella sorbettiera, non facendo economia di ghiaccio e sale.